dici un po' cosa cavolo è. Sì, lavora in quella azienda lì. No, non è radiomotore. Assolutamente. Negativo. Credo che voglia fare anche lui il salto di qualità per i motivi, insomma, che inizialmente ho fatto io, nel senso che per la detenzione, poi le uso, ma è importante per la detenzione, e quindi a volte si fa quel passo, io l'avevo fatto per quello, non per farlo esclusivamente, per avere un po' tutto e senza che nessuno te rompa le scatole, capito? Penso che è un po' più tranquillo, dai. Ma tanto mi pare che Piratone non me ne so più, non è così, voi ne sentite, non è capitato di sentire qua. Più che Piratone, no, ogni tanto c'è qualche volo più bello che a me oggi più mi saluta in 2 metri, mi fa piacere che mi saluti, mi farebbe ancora più piacere poterlo rispondere, ma purtroppo non posso, io non posso assolutamente rispondere lì o in HF, sono nel bandanatore a chi non ha nome attivo, però quando lui mi dice ciao Claudio, capisco che è lui e lo saluto tranquillamente senza nessun problema. Non succede niente, no? Io devi essere come fa certa gente, ma vivi e lascia vivere che siamo tutti uguali. Infatti parlate che si comporti educatamente senza fare imbecille e poi non succede niente. Naturalmente anche lui dovrà darci una regolata, nel senso non è che tutti li fa vedere, ma dire entrare, oh ciao, saluti e poi te ne vai, non penso che sia niente di offensivo. Magari ci sarà qualcuno presuntuoso che si sente toccato se sente qualcuno parlare al di fuori delle, diciamo, dal rango della diamantura. Non si può fare, quindi trovi sempre quello più pignolo. Che ti dice cosa, però a me non te mi frega perché mi saluta, dice ciao Claudio, sai, a volte ci salutiamo anche noi così, però ma io faccio attento quello che è e lui dice amico ciao, ok ciao e basta, si finisce lì, ma non c'è bisogno di creare problemi a chi fa queste cose. Purtroppo ti sento, mi viene il morbo d'Alzheimer per salutarti, no? Ti viene il tinto, perché a me prima di essere arrivatore entravo a salutarlo, me ne andavo, mi conoscevano tutti, io conoscevo a tutti e nessuno mi ha mai detto niente, capito? Poi qual è il problema? Ripeto, bisogna vivere, lasciar vivere, sì, pronto? Ok, Roberto, qua porta la cena, io ti saluto, ti abbraccio, grazie alle 2 chiacchiere. Saluto tutti quelli che sono ascolto, Luca, Sandra, se c'è ancora, se coincido a dopo, se non c'è niente in TV mi faccio 2 chiacchiere qua, altrimenti dopo ci aggiorniamo di persona, ok? Ok, va bene, grazie anche da parte mia per il pensiero, dai, io adesso tengo 2 attimino acceso, poi chiudo, probabilmente non ci sentiamo dopo, dai, ci sentiremo in verticale, ti auguro una buona cena e buon tutto, buona giornata per domani, ciao. Vabbè, grazie anche a te, ciao. Visto che per esempio c'è Piccoli, se tu vedevi lo spettacolo che abbiamo fatto, dico abbiamo perché c'ero anch'io, tutti praticamente i tipi di soccorso c'erano a Olbia, all'aeroporto di Olbia c'erano i Canadair, simulavano gli incendi, salvataggi, noi con l'ambulanza facevamo praticamente dei soccorsi negli incidenti stradali, eccetera, eccetera, e poi i vigili del fuoco con gli elicotteri facevano i salvataggi dall'alto, insomma era uno spettacolo a livello internazionale, c'erano tutte le ambulanze, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, ce n'erano da tutte le parti del mondo. Riprendi un attimino Luca, sto cercando di questa cosa un attimo. Non è stato nuovo, non so qua, non c'è una razza. Ah già, stavo dicendo, ce l'hai, come tu non ce l'hai, no, tu non c'è il, come si chiama, il, ma, aspetta un attimo, ma giurandus, non ce l'hai la, uno smartphone, no. Sentire una cosa, aspetta. Poi è stato risposta ora. Aspetta, non è questa. No, ecco, eccolo qua. Boxer si chiama. Stavo parlando con questo tipo che fa di gabbo, eh. Vedi che programma! Allora, sono io. No, aspetta. Ciao, ma più tardi domani, ciao. Ciao, ciao. È forte, è tipo uno che tocchi già, guarda un po' forte. Quindi metto questa cosa, si paga niente, devo una connessione internet però per farlo. O a casa o una connessione, come si dice, una connessione mobile, ecco. È forte, si chiama, aspetta, Walkie-talkie. Boxer, è un uomo che tu chi uguale. E ma che frequenza va? Ma ci vuole lo sai che hai tu. C'è tu per scaricare, ce l'hai. Allora, una cosa, vai su. Aspetta. Lo proviamo, so ti piace lo stallo lì. Vai su Play Store e scrivi Boxer. Boxer Talk, una cosa del genere è scritto. Poi una volta che tu lo scarichi, devi mettere. C'è una mail, la mail nemmeno è tua, no? Che sei registrato con un telefonino. Poi metti nome e cognome, lo metti, metti un nickname, non so, quello che vuoi tu. Sia nel nome e sia nel cognome. Quando ce n'è più giù ancora, ti metti il numero di telefonino, non metti niente, vai sotto, registra, vai, manda la registrazione. Poi una volta che sei registrato, lo apri, ci clicchi sopra, vai su amici e mi cerchi. Oppure mi dai il tuo contatto, cerco e poi ti mando una mia chiamata. È forte, guardate, se uno non ha soldi, vedi, si può fare anche due chiacchiere qua. È forte. Vediamo così mi risponde, aspetta. Per cui la soluzione viene in questa. Ci sei, grande lavoratore di Genova, mi senti? Aspetta un attimino, vediamo. Ci sei. Dove si sta lavorando? Non lo, dimmi come è scritto esattamente. Boxer. Come è scritto? V. V di Verona, O di Otranto, X. O. E di Empoli, R di Roma. Boxer. Boxer Talk. Walkie Talkie, una cosa del genere. È tipo Walkie Talkie uguale. Ma parlare anche fuori all'estero se vuoi, Infatti loro parlano fuori. Sono in tanti, capito? 90, aspetta un attimo. Ok. CQCQ. E ti viene divertente. Poi è uno smartphone, altrimenti non fa. Io lo faccio qualcosa col tablet. Puoi fare, Auguria. Auguria se lo puoi fare col tablet. Mi sa che va molto molto meglio il tablet. Ma anche l'iPhone, sono telefoni buoni quelli. Ma comunque anche questo qua va bene, si sente bene. Ma andiamo da tanti. Vediamo un po'. Non si sente niente, vai a tanti Paolo, non si sente un cazzo. Ma io sento benissimo, non si sente la mia cosa che la prendi, Io mi sento bene. Ho detto, non mi sento capito che sei in questa strada, non mi dite, perché è una bella, continentale. Genova, figlio di Vanassa. È separato. E sta solo con le donne, sempre. Sono figli di me, è una ciappa, su internet. Quando le conosce, un bel. Come figlio di buona mamma, va. Sono via. Con lui. Tutti nuda, è sempre in campo sta. Perché ci fa problemi che non registrano. Una puttana, Guido. Una futta me, dai. Non posso, se Antonio mi ha trovato, oppure se ha fatto il nickname, mi dà il nick, io raggiungo e ti mando la chiamata. Da un attimino a vedere chi sono io. Sì. Grotte 2, devi mettere. Aspetta. Quindi 15 centimetri a manovrare Brescia, va bene? A sinistra, togliere. Ma sento 2, 1, 0. Tacchia, lui di camiseggia, mi senti? Grondino? Gronde, mi senti? RR? Invece ti arriva? Quello sei tu, Ma sei tu? Cerchiamo una che si chiama. chiama Raffaella. Raffaella. Non so, a comunicare qualcuno, se ti risponde, non so, poi ti chiederà chi sei. Dici, boh, non intruso. Allora, c'è scritto questa che si chiama Raffaella Amodei. Mettila, no, a Raffaella Pope, che è il regista, non metti quella lì. Prova a chiamare un messaggio, vai, prova. Ciao Raffaella, ciao, ci sei, Raffaella. Cosa ti dice? Raffaella, Raffaella, ci sei? Che moscia questa, aspetta un attimino, vediamo, cercando un'altra. Raffaella, ci sei? Raffaella? Pronto Raffaella, mi pare che cosa. Mamma mia, sta sedendo in merda. Vediamo un pochino la nostra amicizia. Salve Paolo, senti. Chiamo Paolo, si fa i risultati, io non so chi è. Allora, la situazione qua sul parto, ok? Non lo so, boh, non ci sono, mi dispiace, ho chiuso perché tanto ci sta, come si dice, la gente, le solite persone che sparlano, hanno sempre da dire, dicono cose false su di me. Allora, siccome io però mi sangue cattivo, niente, non c'entra e basta. Cioè con il mio nick se entro e ti metto di via, dove c'è il mio padre, vado dove voglio e poi posso dire quel tavolo dove voglio, perché io sono rimasto fino all'1:30 a dialogare con delle persone che poi non ne vale la pena, perché dico sono esclusivamente cazzate. Hai capito? Ascolta, chiamami dentro questa discussione, quando adesso vai su in alto a destra ti schiaccia e apre un'altra tendina e aggiungi una nuova persona a questa chat, vai e metti me. Chat? Chi è Alessia? Per me. Chi è Alessia? Boh, non lo so come si fa, chat, amici. Oh, scusa, vai dentro il mio coso, come se dovessi parlare con me. Dopodiché sali in alto a destra e vedi che ci sono tre puntini, uno dietro e sopra l'altro. Schiacci e metti, si apre una nuova tenda e metti, aggiungi una persona a questa chat. Aspetta, allora faccio in alto chat, amici e io. Ma vai come se dovessi andare su di se parlare con me, capito? Non sono come il cazzo, però questa amicizia, chi l'ha aggiunta? Io mi con l'aggiunta, boh. Ma è cancellato tutto qua. È un casinista, ti ho detto, parti dalla pagina, adesso ti dico, parti dalla pagina dove c'è scritto chat amici io, c'è l'elenco delle persone. Io l'ho detto perché, mi si abbassa, aspetta, mi sei codato. Non so perché mi si abbassa il coso del display, boh. La luminosità. Mi si abbassa da solo, cazzo. Allora, ripeto, qua in alto c'è, non so chi sia Natalizia. Dove per parlare? Quel cazzo si elimina questa qua adesso? Cancellati. Ok. Ma sono con chi sia Natalizia? E c'è sempre quanto. Ehi, ma ti sto dicendo adesso, chiama me, hai presente che c'è il mio nominativo, vai su di me, tac tac, doppio clic e si apre la pagina della nostra conversazione. Qua ci sei tu, beh. Adesso devi salire su in alto a destra, li vedi quei tre puntini sopra io? Allora, qua in alto a destra, non c'è tu, che ci sono tre puntini, vabbè? Aggiungi persona a questa, no, ok. Paolo. Fine, ok. Vediamo un po', ci sei Paolo? Guarda, qua c'è un amico, non so se è qua a trovare davanti. senti 1-2-3, 1-2-3. Credo che lui debba accettare la condivisione. Ecco. E no, però questa ce la devo, vedo, ce lo devo un po' macinare per vedere come funziona. Poi mi rendi conto che la situazione era drammatica. Ti puoi fare a testa di dare. Aggiunge una persona a questa chat e devi vedere se aggiungere me o lui, comunque capito. Quindi aspetta, aggiungi una persona a questa chat e ci mettiamo Raffaella Bove. Fine. Allora qua c'è Claude, Luca e Paolo. Questa chat. Ci sei. Tu ci sei. Chi sei tu? Luca, ci sei. Sei tu?